L'acqua santa. A dar l'acqua santa alle case del popolo si dura una settimana. Quando si parte dalla chiesa siamo in quattro. Il priore, con la mantellina viola e sotto una veste bianca fino a mezzo della vita, e poi la tonaca. Noi sagrestani, che siamo tre. Uno che porta la secchiolina con l'acqua benedetta e l'aspersorio, che è una specie di pennello col manico di ferro scolpito e con poche setole radissime. Un altro che porta il paniere delle uova e un terzo sagrestano con il portafiaschi e i fiaschi dell'olio. Quando si parte dalla chiesa suona un doppio e si va alle case per la benedizione. Si fa così. Il priore prende l'aspersorio e lo tuffa nella secchiolina. E poi va nelle stanze delle case con il sagrestano dietro che regge la secchiolina. Benedice tutte le stanze, poi quelle della famiglia, se vogliono, danno olio, uova e anche soldi. Così si fa per una settimana. Dai quaderni di San Gersolè.